avevi fatto, se stai parlando di ricordo un attimo, con siciliano, ho usato il dito e quindi adesso ti ho chiamato tutto qua. Non l'ho chiesto adesso in questo momento, perché ci sono stati disturbi? E allora, stavamo disturbando e non mi facevano prendere le coordinate, comunque uno me le ha mandate per posta elettronica e l'altro me le ha passate e sono riuscito a copiarle lo stesso, quindi possono disturbare quanto mi pare, mi piace, ormai le coordinate ce le ho e sono fregati. Adesso mi apro il computer e vediamo un po' se mi è arrivata la posta elettronica. Sì, se non c'è la gente in faccia, ma non sanno che cosa fare e si mettono a rompere le balle. Infatti, disturbando con rumori, sirene, CV doppio, già ne hanno fatto poco di mala sorte. Intanto ho copiato il tutto e possono andare in apertura adesso, scusando la frase, cazzo di... Si può andare a disturbare, ma io, ma è roba da chiudi proprio. Ecco qua. Adesso me l'apro, mette. Voglio vedere cosa fanno adesso. Io ti stavo chiamando qua in questo canale e non ho, come c'è messo l'altro, ma adesso faccio un giro e ti ho beccato lì. Stavo chiamando anche sul 21 poco fa. No, mi hanno fregato perché è venuta gente, infatti ho chiamato verso il 2 e mezzo, le 3 meno un quarto e qua non c'era nessuno. Vabbè, no problem, dai. Capito, per tutta gente sono dovuto purtroppo stare lì da loro. La palestra era accesa, però non sentivo nulla perché ero fuori. Comunque, capito. Ho fatto una spazzolottina e ti ho sentito in quel canale là. E infatti, ui. Ma cosa volete dire? E i disturbatori ci sono sempre, andate lì purtroppo. Se l'ho detto non ce n'è, ma non ce n'è perché? Perché non c'è maturità. Voglio dire se mi vado in sala. Oh, Milo mi è arrivato, aspetta un attimo, Vittorio. Ehi? Aspetta che mi è arrivata la situazione. Vediamo un po'. Carissimo, no? Ok. Ecco qua. E beh, che sono... Cos'è? Non è giusto, anche. No, trovato. Ecco qua. Adesso me lo scrivo e loro vanno a Pangualla. Quello almeno ti è arrivato. Chi invece gli ho mandato giù o niente? Non ho capito. Tu sei domandato giù la sta lì, Rugoso, per la albastiera, niente. Aspetta che non ho capito, dai un attimo che... Allora... Tanto Italia, tanto la Francia, l'Italia è la stazione del Torino Mafese, del Torino Mafese, dove la sono chiusa per la Rodica Pioca. Per la tastiera nulla ancora, no? Niente. No, non mi è arrivato niente, guarda qua cosa adesso. Ho capito. Che strano per un'azienda come quella, caspita, non rispondere a dire che magari non è attivo, è sconosciuto o qualche cosa. Nulla, non ti hanno proprio, ti hanno ignorato. Ti hanno ignorato, infatti. quel posto lì, ci lamentiamo maledettamente con quello che vende quella roba lì. Gli diciamo proprio che c'è un'innovata e ne usiamo una bella protesta, perché loro a me mi dovevano, o per non mi dovevano rispondere. Che cazzo di disfasseria è quella? Sì, no, beh, io sono meravigliato, proprio sono meravigliato. Comunque ieri stavo parlando con una persona e mi hanno detto che c'è praticamente uno che fa l'assistenza qui in città e quindi praticamente si dovrebbe portarla da lui, il dischetto lui ce l'ha, non lo danno il dischetto in coppia, devi andare a portarla l'altra sera e te lo installa lui nuovamente il programma, capito, lo ripristina. Perché però una volta che è ripristinato tu dalla tastiera poi te lo puoi scaricare in un dischetto? No, non si può fare, perché lo sai come si carica, io quando mi faccio questo lavoro, ma io adesso lo sai cosa faccio, prendo nuovamente, è che se mi metto a cercare il dischetto, sai quanti dischetti ho? Penso siano 1500 di questi dischetti, se ne metto ad uno a provarli, mi sfascio il drive, perché entrando e scendo, questo non è, questo vuole tempo, perché quando lo metto devi spegnere la tastiera, inserire il dischetto e poi accendere, automaticamente il programma lo assume e quindi capito cosa succede, che poi mi mette casini di altre cose, perché io nei dischetti ho anche programmi di altre tastiere e quindi a volte per non creare questi casini, in effetti io quel programma ce l'ho, ma dov'è in questi 1500 dischetti che io ho? Vai e trova. Perché tu te lo dovevi, praticamente te lo dovevi copiare in un dischetto e scrivere che era quello, capito? Perché è stato fatto un errore, quel dischetto io ce l'avevo dietro di me dove c'è il telefono, hai visto dietro la tastiera c'è il telefono, e lo avevo sempre lì fisso, non è come se distrattamente ho giubilato e l'ho appoggiato in mezzo agli altri, non capisco cosa sia successo, e siccome non era segnato, era nero, tutto così, e si è mescolato insieme agli altri, ecco che cosa è successo, e dopo ci abbiamo tutti insieme ed è successo questo casino. Adesso non posso spedire con le, ho finito le QSL personali, adesso non posso spedire la QSL da quei due, bisogna che mi compri la cartuccia della stampante, ma se no non posso fare nulla. Vabbè, mi la tengo qua, così, appena è pronto, perché ho collegato l'Inghilterra, la Polonia, li hanno ricollegati poco di ieri. Vabbè, va, devo ristampare quelli, perché sono quelle fatte da me, capito? E poi gli mando le cartoline della Sardegna. Sì, è una cartolina normalissima, o del mare o della città. Ma io gli voglio mandare anche quella mia personale. Ebbene, non te lo puoi ristampare. Non c'ho le cartucce della stampante che sono finite. Mi devo comprare cartucce della stampante, sì. Vabbè, ma non c'è problema. La stampante te la posso prestare io una. Una stampante? Perché non ce l'ho la stampante, non l'ho mai usata. Aspetta. E poi il driver ce l'ha di quella stampante? Il CD c'ho per inserirlo. Bisogna vedere se funziona. Allora, perché se si è seccato l'inchiostro è un casino. C'ero 2 anni fa, non l'ho mai usata, l'avevo presa e non l'ho mai usata. Ma la cartuccia già inserita le avevi? La cartuccia è dentro, era pronta per usarla, ma non l'ho mai usata. Però te la guarda, ti vedi non fai per stampante. Oh, ma credo che funzioni, secondo me non funziona. Ma perché il toner lì si esaurisce? Ma toner è? E allora non è in bianco e nero, è a colori. No, è a colori, ma scherzando, sai. Hai aggiunto l'inchiostro, sarà allora, non è a toner. Quelli a toner sono in bianco e nero. No, non lo so, c'è una cosa sotto che si inserisce, boh. Vabbè, ma sarà guasta se di quelli là non funzionerà. Che importante è? specialmente se è una dichiarazione. Ma guarda, ce l'ho detto di me. Aspetta, guarda, non so. È terribile. È per un cavolo. Questo è via. Non si vede nulla. Aspetta, c'è la luce, vediamo che non si vede nulla. Vediamo un po'. Adesso qual è? Sento in tedesco, Zelchitta. Come si colore? Perché è cosa qua? No, è bella in tedesco. Ma bisogna vedere se funziona adesso. Se 2 anni fa mi ha lasciato la cartuccia dentro, tu. La cartuccia per forza era dentro, l'ho lasciata dentro. Che cosa dovevo fare se è completa così? È la stessa cartucchiotra adesso, non parte più. Quella lì non funziona più adesso la stampante, non è vero? È molto strano, comunque questa è nuova, nuova, non è stata mai usata, perché io non l'ho usata mai. L'ho presa ed è rimasta lì. Non ho capito. Cosa volete dire? Per vedere se funziona bisogna provarla, no? Mi sembra di sì. Basta portare il driver e la stampante qua, la proviamo. Cosa volete dire? Oggi proviamo a stampare un po' di quelle cartoline. Cosa vuol dire? Che io non lo so, non le capisco, perché non l'ho mai usata, non l'ho mai collegata neanche al computer. Era dentro la scatola, poi l'ho tolta, la scatola mi aveva fastidio perché era troppo ingombrante e mi è rimasta nuda, ce l'ho dentro una busta. Se la puoi portare, portala, il dischetto, forse, così vediamo un po' se funziona. E così mi stampo un po' di QSL, che non ne ho una decina, me ne stampo intanto di mandarne qualcuna, quelle più urgenti, dai. Vediamo le notte, però magari stasera no, perché adesso devo andare in un posto, devo andare in un paesino qua vicino per fare una commissione, e non so se ce la facciamo stasera, però probabilmente domani lo facciamo. Vabbè, fatti sentire domani. Sì, domani in radio ti faccio una chiamattina, se non ti faccio uno squillo al telefono, poi ci stiamo in radio. Capito? Non so. Ehi, domani ad esempio verso le 3 ti faccio uno squillo al telefono, ed entri in radio a quell'ora lì. Quando senti il telefono squillare con il mio numero, entri in radio senza rispondere nemmeno. Ok. Adesso mi sgancio un attimo che mi stavano chiamando,